Vita della serva di Dio Luigina Sinapi. Luigina Sinapi nacque ad Itri, in provincia di Latina, il giorno 8 settembre 1916 e nasce in una famiglia benestante, è la maggiore di 5 figli e venne alla luce prematuramente con un parto gemellare. La sorellina morì quasi subito, mentre lei, tra la grande trepidazione di suoi cari, sopravvisse. Il papà si chiamava Francesco Paolo ed faceva l'ebanista, era anche proprietario di una bella bottega con una quindicina di operai, ma era di carattere debole e anche collerico, mentre la mamma Filomena era un'ostetrica. Nutriva lei, questa donna meravigliosa, invece una profonda religiosità, aveva un carattere aperto, generoso e crebbe 5 figli infondendo loro l'amore per Gesù e per il prossimo. Una donna di sani e santi principi che le permisero di vivere accanto ad un marito dal carattere non sempre facile. Intanto la nostra Luigina, fin da primi anni, la sua vivacità e la sua allegria, quella che sprigionava, le accattivavano la simpatia di tutti, ma aveva allo stesso tempo, pur se piccola, anche manifestazioni straordinarie. Gesù stesso, sotto le sembianze di bimbo, amava giocare con lei. E questo era per lei una cosa talmente naturale da credere che ogni bambino giocasse normalmente con il piccolo Gesù. Racconta lei stessa che aveva 5 anni quando un pomeriggio lo zio sacerdote, venuto a far visita alla famiglia, stava recitando il breviario seduto in camera, mentre lei giocava in giardino a rimpiattino con Gesù. Lo zio ogni tanto, sollevando gli occhi dal breviario, dava un'occhiata così per controllare attraverso la finestra nel giardino e guardava stupito questa nipotina correre tutta sola da un lato all'altro, come se rincorresse qualcuno o qualcosa. Dopo un poco, eccola piombare in camera sua, ficcarsi sotto il letto, strillando e ridendo. Lo zio, disturbato nel suo pregare, la sgridò. Di risposta lei, con aria innocente e con semplicità, spiegò che la colpa era tutta di Gesù bambino, che giocando si era rifugiato sotto il letto. Davanti al viso un po' burbero, anche perplesso dello zio, Luigina, per mostrargli la sua innocenza, si mise con naturalezza a recitargli in latino il versetto che in quell'attimo lui stava leggendo. Ovviamente lo zio restò sconcertato da questa cosa, anche perché non poteva conoscere il latino e neanche quello che lui stava leggendo. Allora, con un tono tra la collera e la sorpresa, le disse: «Te lo do io, Gesù bambino, tu hai addosso il demonio e hai bisogno di benedizione e di molta acqua santa». Insomma, da quel momento la nostra piccola cominciò a non essere più capita e presa sul serio. E questo suo modo di essere, di manifestarsi, diventò un vero interrogativo sia per i genitori e per i parenti, oltre che per se stessa. Infatti non riusciva più a capire questi rimproveri da parte dei genitori, no? Perché? Perché oltre a questo fatto ce ne furono altri, per esempio con il suo angelo custode, che confermavano questa sua confidenza con le cose del cielo. Insomma, davanti a questi avvenimenti che la circondavano, la mamma, ovviamente molto preoccupata, insomma, i genitori pensavano che avesse dei grossi problemi o che fosse veramente posseduta, perché dicevano: non è possibile, oppure che gli fosse data, insomma, che fosse, avesse dei problemi a livello psicologico. Dopo aver molto pregato, decise alla fine di portarla con sé da Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Siamo verso la metà degli anni venti. La portò da Padre Pio per un consiglio, ma soprattutto per una benedizione. Ebbene, Padre Pio li accolse, pose la sua mano, la mano stigmatizzata, sul capo della bimba e disse: «Dio si manifesta in lei con la sua volontà». Thank you. Naturalmente queste parole di Padre Pio colpirono nel profondo la mamma. Era andata con un pensiero e ne ritorna completamente con un altro. Infatti da quel giorno comprese il tesoro prezioso che il Signore aveva donato alla sua famiglia. Nel frattempo la piccola trascorreva la sua fanciullezza in una certa agiatezza, nella bella casa dove viveva, dove però anche i poveri, grazie alla generosità della mamma Filomena, trovavano sempre di che sfamarsi. Lei intanto frequenta in quegli anni le elementari. A 7 anni aveva ricevuto nella prima comunione Gesù ed era stato l'inizio di un amore ardente, appassionato, anche se era piccolina. E proprio da allora la Santa Messa, con la comunione di ogni giorno, il colloquio prolungato davanti al tabernacolo, diventarono la sua vita. Allo stesso tempo nutriva una profonda venerazione e un tenero affetto per la Madonna, che pregava a lungo con il rosario, contemplando i dolori nella partecipazione alla passione di Gesù. Dice il fratello Pietro, è una testimonianza preziosa questa, lo vedremo adesso durante la trasmissione più volte, dice Pietro, gli piaceva moltissimo soffermarsi sui vari misteri e li meditava. Chiedeva anche alle compagne che facessero come lei e pregassero la Madonna con la corona del rosario, perché riteneva che era un'arma potente per difendersi dal demonio. E in Maria Santissima aveva una fiducia illimitata, così grande da strapparle dei veri miracoli, e la gente, rendendosi conto di questa sua familiarità con il cielo, si rendeva conto che era una bambina speciale, particolare, le chiedeva di pregarla per le loro necessità e le grazie arrivavano e come. E la sua offerta e la sua bontà erano meravigliose già da piccola. Dice ancora Pietro, quante volte la mamma dovette di notte recarsi nelle campagne per assistere qualche partoriente, faceva l'ostetrica, dicevamo. Andava sola, dice Pietro, anche sotto la pioggia e forti temporali. Gina allora svegliava noi fratellini, e posando un'immagine della Madonna della Civita su una seggiola e accendendo una candelina, in ginocchio ci faceva pregare fino a che la mamma non avesse fatto ritorno a casa. E per non farci addormentare, spiegava la vita di Gesù, parlandoci dei dolori della Madonna per il figlio crocifisso. Quando poi l'assenza si prolungava, leggeva un brano del Vangelo e lo commentava con la sua bella e dolce voce. Noi, dice Pietro, eravamo felici, incantati ad ascoltarla e rimanevamo ben svegli. Terminati gli studi elementari, è sempre il fratello che commenta, si presentò per i nostri genitori il problema di mandarla alle scuole medie, fuori paese, perché da noi non esistevano. La scuola più vicina si trovava a Formia, distante una decina di chilometri da Itri. Gina dovette quindi prendere la corriera per recarsi a scuola e rientrare nel pomeriggio. Era di salute gracile, ma non le importava che le dicessero che spesso stesse a casa ammalata, infatti aveva poca salute. Piena di tanta buona volontà, dice Pietro, e con una grande ansia di imparare per poter essere utile agli altri, non la preoccupò minimamente la fatica del viaggio giornaliero e l'impegno degli studi. Alcune persone, vedendola così gracile e pallida, le dicevano che era tisica, praticamente la offendevano. Lei però, con umiltà e con pazienza, perdonava queste persone non certo buone e pregava per loro. Diceva che non sapevano quello che dicevano. Le sue cose le sapevano solo Gesù e la Madonna. E continua Pietro, svariate volte Gina dovette farsi il tragitto di ritorno a piedi perché la corriera si guastava per strada. Erano 10 chilometri, eh? Da notare che si alzava al mattino molto presto, faceva la Santa Comunione e più delle volte rimaneva tutta la giornata senza toccare cibo. Sappiamo che allora ci voleva una giornata praticamente di digiuno prima di ricevere la Santa Comunione. Eppure, dice Pietro, non le mancavano le forze e dalla sua bocca non uscì mai nemmeno un lamento per il disagio o la stanchezza. E qui dopo l'elementare viene iscritta poi alla prima ginnasio, così si chiamava allora la scuola media inferiore, E sempre il fratello racconta: terminato il terzo anno ginnasiale e prima che iniziasse il quarto, lei espresse ai nostri genitori il desiderio di entrare in un collegio di suore a Roma. La chiamata era fortissima, come possiamo immaginare, a essere totalmente di Gesù. Questo era il suo desiderio più grande, più profondo. Dice Pietro: papà e mamma erano d'accordo, felici, anche perché lei aveva espresso il desiderio di farsi suora appena terminati gli studi. Nella nuova piccola comunità di queste suore, sistemata in una casa modesta, c'era molta povertà e molti stenti, ma anche molto entusiasmo e molta fusione d'anime. Luigina passò un periodo di prova con le figlie di San Paolo di Don Alberione ed ebbe come padre spirituale Don Timoteo Giaccardo. Don Timoteo Giaccardo oggi è beato. Continua Pietro: era la notte di Natale e lei, prima di tornare a Itri, questo fu un momento di grandissimo dolore, prima di tornare a Itri, dal momento che non venne accettata a causa della malferma salute, desiderava passare le ultime ore nella comunità. Stava tutta sola in un angolo, seduta su una panchetta della cappella, quando si avvicinò Don Timoteo e gli chiese a bruciapelo se per amore di Gesù volesse offrirsi vittima per salvare delle anime. Luigina, come sempre piena di carità per il prossimo, non se lo fece dire due volte e accettò immediatamente. E lui, Don Giaccardo, con accento profetico concluse: vai figliola, la tua vocazione è un'altra e altrove, tu però apparterrai per sempre all'anima della famiglia Paolina. All'istante, rimettendosi seduta, sentì un dolore atroce al bacino e credette di svenire, ma non disse nulla a nessuno. Tornata il giorno dopo a casa e perdurando il male, si decise a farsi visitare dal medico. Il referto fu senza pietà: un tumore nella parte terminale dell'intestino retto. Cominciò così il suo duro e doloroso calvario. E qui arriviamo al 1930, lei aveva 14 anni, e i suoi rapimenti con il cielo continuavano. E dicevamo è un pezzo di cielo che è sceso sulla terra, ma è vero, cioè è quello che successe. E quel giorno, e fu un giorno meraviglioso perché vide Santa Rita da Cascia, le apparve, ma anche di grandissimo dolore, perché la santa delle cause impossibili le chiedeva in quel momento una prova immane, cioè di portare la mamma in cielo. Lei si ribellò fortemente, fece le sue rimostranze, non accettava la perdita della mamma. L'anno dopo, siamo nel novembre del 1931, la madre muore a soli 44 anni. Prima di lasciare la terra, attorniata dalla prole, raccomandò ai figli sgomenti e dagli occhi lucidi per il pianto di essere buoni, timorati di Dio, e di fare sempre la sua divina volontà in ogni momento della vita. La nostra serva di Dio rimase così sola. C'erano i suoi quattro fratellini, il papà, la nonna, ma la mamma che la guidava e che la capiva non c'era più. Aveva 15 anni, si trovava di colpo adulta e con un grande dolore nel cuore. Dice Pietro: questa volta però la Madonna non ascoltò Gina, perché il disegno divino era diverso. La mamma, dice, si aggravava e fra dolori atroci, sopportati con santa rassegnazione, offriva tutto alla Vergine per noi figli. E la mattina del 4 novembre 1931, alle ore 4, mamma spirò. Aveva solo 44 anni. Da dire che quel giorno in cui gli apparve Santa Rita, non lo dimentico più, non tanto per il fatto che le apparve, ebbe questa visione, quanto per il fatto che le aveva chiesto questo dolore enorme, questa grande perdita. In effetti lei dirà in futuro che tanto se la prese con la santa degli impossibili che solo dopo molti anni, quindi già adulta, si pacificò, dice, con lei, andando al suo santuario per fare la pace. Ma torniamo alla nostra serva di Dio. A giugno del 1931, cioè pochi mesi prima della morte della mamma, lei aveva interrotto gli studi ginnasiali a causa anche della sua malattia, ricordiamoci che aveva un tumore, e lo fece con dolore perché riusciva bene negli studi, malgrado avesse questa salute molto cagionevole e facesse anche molte assenze durante l'anno scolastico, ma riusciva sempre ad avere buoni voti e a essere promossa. Intanto con la morte della mamma per lei si chiuse il primo capitolo della sua vita e cominciò questa strada irta e dolorosa, anche se ricca di grandissimi favori divini che la provvidenza le aveva tracciato. Dice sempre il fratello Pietro, per farci capire il momento, no? Per papà la morte di mamma fu un durissimo colpo, sia per le doti che ella possedeva, sia perché si trovava con 5 figli, dei quali l'ultimo aveva appena 3 anni. Fu da questo momento che papà, poco a poco, cominciò a cambiare, a trascurare il lavoro, gli interessi di famiglia. Gina invece non si perse d'animo e, sicura dei suoi studi, si mise a dare lezioni private a molti scolaretti di Itri. In cambio riceveva dalle famiglie soldi o beni in natura, così riusciva a portare avanti la famiglia dal momento che papà si era stranito e non lavorando più non guadagnava nulla. In questi 2 anni, dopo la morte di mamma, tutto il vicinato poté apprezzare le doti, la saggezza di Gina e tutti le volevano bene e l'aiutavano. Non così fu per i parenti di mio padre, che ancora una volta si dettero da fare affinché ci allontanassero dal paese, mandandoci a convivere separati presso gli zii. E dopo 2 anni, dice Pietro, riuscirono nello scopo. Qui purtroppo hanno dovuto affrontare anche questa prova ulteriore, questi ragazzi. Ma prima di andare a Roma, come sarà, la nostra serva di Dio, dicevamo, aveva questa grave malattia, questo tumore diagnosticato qualche anno prima nella parte terminale dell'intestino. E sempre Pietro ci racconta come faceva, i sacrifici che faceva questa ragazza. Dice, con la vitalità dei suoi 18 anni però non si perse d'animo e per circa 2 anni, sempre coricata supina con la testa in fondo al letto, continuò il suo insegnamento privato ai bambini. Man mano però il male progrediva e in pochi mesi arrivò alla fine. Sempre serena, abbandonata alla volontà del cielo, se da un lato le dispiaceva lasciare i fratelli e la sorella, il papà e la nonna ormai anziana, dall'altro lato era felice perché sarebbe andata ad abbracciare la mamma in cielo. Avvicinandosi la fine si fece rivestire e sistemare dalla nonna e, rigirata sul letto, entrò in agonia. In questi ultimi 2 anni però dobbiamo dire anche un'altra cosa, che non solo viveva momenti di grande dolore e di sacrificio, ma era stata anche privata dalle visioni e dalle parole di Gesù. Ed era questo che le causava un tormento intimo più di quello che era la malattia. Oltretutto lei non riusciva, era proprio la notte oscura, non riusciva a spiegarsi questo lungo silenzio del Signore, cioè si sentiva sola, abbandonata, non capiva il perché di questa cosa. E il perché era che l'offerta di vittima doveva essere completa, totale. E arriviamo al 15 agosto 1935, aveva 19 anni, festa di Maria, il parroco arrivò a casa, era profondamente commosso e le amministrò l'estrema unzione. Anche il medico, silenzioso e immobile accanto al letto, la osservava mentre la nonna e i familiari pregavano sottovoce. Nel frattempo, questo è il grande affetto che avevano per lei, molte persone del paese riunitisi in chiesa pregavano e commentavano la fine precoce di una figliola così buona e cara. era un momento carico di tensione anche, no? Di attesa, e mentre tutto attorno a lei si svolgevano questi fatti, Luigina si sentì chiamare dolcemente. Voltandosi dalla parte da dove veniva la voce, scorse al fianco del letto Gesù, sorridente. Allora lei, pur nella grande gioia, non risparmiò un rimprovero a Gesù, e dicendogli: «Non ti sei fatto vivo per 2 lunghi anni, e ora che sto morendo vieni?» Naturalmente fu una visione, quindi un colloquio spirituale, perché nessuno vedeva niente, e questo lo racconterà poi lei, Luigina, al suo direttore spirituale, quindi anche a Pietro. Gesù, con un incantevole sorriso, le rispose: «Sono venuto per farti un bel dono», e le indicò la Madonna. Poi riprese: «Siamo venuti a farti una proposta, tu però sei libera di scegliere. Vuoi morire e salire in paradiso, oppure offrirti vittima per la Chiesa e per i sacerdoti?» E qui, come in un velocissimo film, dice Pietro, Gina vide i pericoli di apostasia ai quali negli anni futuri andavano incontro la Chiesa e i sacerdoti, e vide anche la sua dolorosa vita futura, quindi aveva ben chiaro cosa le aspettava. All'istante lei accettò la seconda offerta e si offrì vittima. Gesù le disse ancora: «Non entrerai più in convento, ma come una persona comune vivrai nascosta agli occhi del mondo. Sarai poco compresa, soffrirai molto e morirai sola come me. Sarai il granello di senape in un solco di Roma. Vivrai lo straordinario nell'ordinario. Da questo momento ti lascerò la mia Santa Madre, ti guiderà e ti conforterà. Sii una violetta nascosta, ma sempre profumata». Subito dopo questo, il suo angelo custode, ci dicono si chiamasse Samuele, presala per le mani, la fece sedere sul letto e poi la mise in piedi. Preciso che i presenti, come dicevo, non si erano accorti assolutamente di nulla, cioè loro videro all'improvviso Luigina sedersi e poi scendere dal letto con l'agilità, e le bende, come fossero tagliate dalle forbici, caddero a terra imbevute di marciume, quindi del liquido anche tumorale, esalanti però un meraviglioso profumo. Lì c'era la gente presente, quindi molti furono i testimoni. Tutti gridarono al miracolo e il medico presente, sconcertato, constatò la totale guarigione. Era ritornata in forze, bella e sana. Si fece naturalmente molto scalpore in paese e il papà, per evitare scene di fanatismo, decise di far andare Luigina a Roma dagli zii alla Garbatella, in questo quartiere. Gina, dice Pietro, lasciò Itri per Roma e abitò presso gli zii. Ai primi tempi tutto andò bene, ma ben presto cominciarono in casa spiacevoli scenate, perché Gina andava tutte le mattine di buon'ora in chiesa e vi si tratteneva parecchio, scambiando dopo la messa qualche parola con il parroco, che l'aveva presa a ben volere, e con altre buone persone, soprattutto anziane, alle quali dava conforto e infondeva speranza. Agli zii non piaceva che mia sorella avvicinasse degli estranei e volevano che stesse sempre in casa a sbrigare le faccende. Non è che Gina fosse una fannullona, dice Pietro, e perdesse il tempo in chiacchiere. Il suo bisogno interiore di fare dell'apostolato era come una forza che la spingeva a parlare della bontà di Dio e della Madonna per tutta l'umanità e per ogni singolo uomo. Nulla servì a convincere gli zii a lasciarlo un po' di tempo libero. Alla fine fu costretta ad abbandonarli e ad accettare del lavoro casalingo presso una famiglia che aveva conosciuto nel quartiere. E qui dal 1936, quindi quando è andata a Roma, fino al 40, lavora presso l'Istituto di Statistica, che le consente di affittarsi anche un piccolo appartamentino. Praticamente viveva lo straordinario nell'ordinario, come gli aveva detto Gesù. E qui si dedica a quello che ama di più, all'adorazione eucaristica, all'apostolato, diciamo, quotidiano, ma anche a quello straordinario, come quando il Signore la manda in bilocazione a portare soccorso ai vescovi e ai sacerdoti perseguitati nell'est europeo e in Russia. Dello stesso tempo però, come tutti i santi, il diavolo la tormenta in ogni modo, così che non le mancano mai sofferenze e difficoltà di ogni genere. E, come vedremo, arriverà addirittura a picchiarla. Questo era quello che faceva anche con Santa Gemma, con Padre Pio. Ma la cosa che la ferisce di più, che ferisce di più questa serva di Dio, sarà soprattutto il tradimento di persone che lei amava profondamente e che erano anche a volte delle sue, le reputava una tra le migliori amiche sue, ma era, la vita era questa. Non per nulla si era offerta vittima per la Chiesa e per i sacerdoti, e il bene che compie è sempre più grande, a larghissimo raggio. Aveva, diciamo, ed era profondamente devota al suo patrono, San Francesco d'Assisi, ma anche a Santa Teresina di Lisieux, inoltre a Santa Gemma Galgani. E proprio a Santa Gemma Galgani era talmente, diciamo, legata a questa santa che visitò più volte il santuario a lei dedicato nella città di Lucca. Lì c'è anche il corpo di Santa Gemma Galgani, e anche alla congregazione delle sorelle di Santa Gemma, di queste suore, fu legata sempre da grande amicizia. Un giorno, anzi, raccontò Luigina Sinapio ad una persona molto amica che la stessa Santa Gemma l'aveva salvata da un incendio. Successe questo. Lei amava fare ogni anno il presepe per Natale. Nei primi anni, però, che era a Roma, non si poteva permettere delle statuette in legno e in gesso, allora le aveva fatte lei in cartapesta. Una sera, però, era molto stanca, si era addormentata, dimenticandosi di spegnere le candeline che illuminavano la grotta. Santa Gemma, durante la notte, la svegliò, dicendole di aver spento il fuoco che era divampato nel presepio per evitare un grande incendio. In effetti, lei si accorse che tutto era semidistrutto, ma il resto della camera era stranissimamente in ordine. E arriviamo così anche alla mattina dell'aprile del 1937. Allora, questa è una data importantissima perché ci fa capire che quello che questa non è serva di Dio per caso, quanto la Chiesa, sapete che prima di di approvare determinate cause indaga a fondo e nel profondo. Ma questo ci dà ancora un motivo in più per credere a quello che questa mistica ha passato nella sua vita. La mattina dell'aprile del 1937 lei si trovava presso l'abbazia, vicino all'abbazia delle Tre Fontane, che è anche il luogo del martirio dell'Apostolo San Paolo. E qui era arrivata per un piccolo convegno con altre giovani dell'associazione, erano le Figlie di Maria, un movimento mariano di cui lei era anche responsabile e faceva parte. Nella giornata, mentre in una pausa le altre ragazze si riposavano, chiacchierando tra loro, lei si inoltrò per parecchio all'interno, tra le piante secolari, e camminando arrivò all'interno fino ad una grotta. All'improvviso sentì una voce e vide la Madonna. Gli occhi della Vergine, sereni ma molto tristi, si posarono su un punto. Lei lo seguì e vide con orrore che la Madonna guardava gli ossicini di un aborto. Praticamente era un piccolo feto. Luigina capì immediatamente e, fatto una piccola buca, seppellì quei poveri resti di una creaturina che non poteva vedere la luce, e poi mise sopra questa creaturina una medaglietta. Allora, dice, la bella signora sorrise compiaciuta. Bisogna anche dire che quella grotta naturale allora, purtroppo, era un posto malfamato e ricettacolo di quanto si voleva far scomparire. C'erano addirittura tonache abbandonate, croci spezzate, quindi facevano anche dei riti di un certo tipo, e resti in decomposizione. Ma la Madonna le dice: esattamente fra 10 anni tornerò in questo luogo, mi servirò di un uomo che oggi perseguita me e la Chiesa Cattolica e vuole uccidere il Papa. Ora tu vai in piazza San Pietro, troverai una signora vestita così, quindi dà indicazioni su com'era questa signora, e le chiederai di condurti da suo fratello cardinale. Porterai a lui il mio messaggio. Da questo luogo stabilirò a Roma il trono della mia gloria. Inoltre, di al cardinale che presto sarà lui il nuovo papa. Ebbene, cari amici, 10 anni dopo da questa data, quindi lì Luigina Sinapi ha avuto questa rivelazione nel 1937, 10 anni dopo, nel 1947, la Vergine si mostrerà in modo tangibile in quella terra in cui erano presenti dissacrazioni e oscenità e diventerà un luogo santo consacrato alla preghiera. Infatti, come già sappiamo, il 12 aprile del 1947, il sabato in Albis, la Madonna bianco vestita, ammantata di verde, cinta di rose, apparirà a 3 bambini e al loro papà, Bruno Cornacchiola, e si definirà la Vergine della Rivelazione. Nel frattempo, Luigina va a San Pietro, dove incontra qui questa donna che l'aveva indicato la Madonna, ed è la Marchesa Pacelli, cioè la sorella del futuro Papa Pio XII, che le ottiene subito di parlare con il fratello, allora cardinale, Eugenio Pacelli, allora era segretario di Stato. Il porporato crede a quella ragazza di 21 anni come un'inviata di Dio. Infatti lei ha un colloquio con il cardinal Pacelli e riferisce a lui tutto quello che la Madonna desiderava. Ma all'ultima frase, cioè quando lei disse al cardinale che lui sarebbe diventato Papa, lui la guardò con un fare distaccato, anche un po' seccato, e le disse: se sono rose fioriranno. Quindi, diciamo, in cuor suo capiva che era vero, ma forse non voleva dare l'impressione di andare fino in fondo, insomma, forse era troppo una cosa, diciamo, non appropriata. Però questa cosa ci fa anche capire perché il Beato Pio XII abbia dato tanto rapidamente credito poi ai fatti delle Tre Fontane, quando si verificarono nel 1947, e perché solo pochi mesi dopo l'apparizione, quindi l'apparizione è stata in aprile, il 5 ottobre il Piazza San Pietro abbia impartito Pio XII la sua benedizione alla statua della Vergine che stava per essere portato proprio nella grotta delle Tre Fontane. Lui era già al corrente di tutto, da 10 anni. Lo stesso Bruno Cornacchiola, il veggente, più tardi seppe dal gesuita padre Lombardi, che era il tramite tra lui e il Papa, che quando fece leggere a Pio XII il messaggio della Vergine, cioè quello che la Madonna aveva detto a Cornacchiola, il Papa, molto commosso, disse: io già sapevo. E vista realizzata questa profezia che riguardava anche la sua elezione al papato, Pio XII continuò ovviamente a stimare sempre più Luigina, e i suoi incontri con lei si infittirono nelle frequenti udienze, anche nelle telefonate reciproche. Gran parte di questo rimase chiaramente segreto, ma qualcosa ella stessa ha rivelato. Un giorno, in cui giunge all'udienza con il Papa, coperta di lividi, per le percosse ricevute dal diavolo, e questa non è una favola, ma è vero perché è documentato, il Papa Pio XII le dona una reliquia della croce di Gesù e le dice: portala sempre con te, ti proteggerà da Satana. Avvenne però che per ben 3 volte negli anni successivi lei, per dimenticanza, non portasse la reliquia, e il demonio si avventò contro di lei vendicandosi con tutta la rabbia. Dell'ultima volta, però, fu testimone proprio il fratello, Pietro, e vi spiego cosa avvenne, perché è una realtà vera e quindi è bene dirle queste cose. Si trovavano, sia Luigina che Pietro, per una giornata di pace e di preghiera ad Assisi, dove lei amava andare a far visita al suo grande protettore San Francesco. Nel tardo pomeriggio, dopo aver sostato a lungo nella Basilica del Santo, uscirono sul piazzale sottostante per salire in auto e rientrare così a Montefalco. Qui a Montefalco erano ospiti delle Clarisse. Luigina, avvicinandosi alla macchina, ricevette un violentissimo colpo sulla schiena che le fece fare un volo di molti metri, stramazzando poi al suolo. Sulla piazza non c'era nessuno, tranne Pietro e lei. Il fratello, spaventato, corse sgomento verso la sorella temendo il peggio, la sollevò, vide il viso insanguinato e lei che si lamentava per la spalla così dolorante da sembrare fratturata. Con fatica Pietro la portò a sedere in macchina e con l'acqua benedetta, di cui teneva sempre una boccetta nel cruscotto, le pulì il viso dal sangue e gliene fece bere qualche sorso. Lei, con la forza e il coraggio che non le mancarono mai, anche nelle situazioni più difficili, tranquillizzò il fratello e gli confidò che al mattino, prima di lasciare la camera, aveva dimenticato sul comodino la reliquia della Santa Croce. Lo pregò poi, che lui voleva portarla al pronto soccorso, di non andare, ma di rientrare al Montefalco, e gli disse: «Non è nulla, non è nulla, è tutto passato». Non era nulla, disse al fratello, ma quella spalla le arrecò per 2 anni, cioè fino alla morte, dei dolori atroci. A questo proposito però vi participo anche la testimonianza di una sua carissima amica, si chiama Maria Rosaria Calabrese, è anche sua confidente, che ci racconta questa cosa. Dice Maria Rosaria: «Mi piace ricordare che a Fatima la Madonna, preoccupata per queste cose che sono le mode che avrebbero offeso molto il suo figlio, era venuta a chiedere penitenze, preghiere, sacrifici per avere la pace. Cosa dire a proposito delle manipolazioni genetiche, delle violenze fisiche e morali, dei milioni di giovani che vivono l'avventura terribile della droga solo per il tornacontismo di gente senza scrupoli, dei matrimoni divisi, della pornografia e di tanto altro ancora, che anch'esse sono mode perverse e crudeli. Così, dice Maria Rosaria, così pure a Luigina la Madonna, presentandosi tanto triste, ha voluto richiamarla ad una realtà che procura una minaccia per il destino eterno dell'uomo, l'inferno. L'inferno che è ancora più catastrofico di tutte le guerre messe insieme di cui abbiamo tanto terrore. La parola inferno, dice questa donna, non si vuole più pronunciare e si vorrebbe cancellare anche dal pensiero dell'uomo, ma esso c'è e sarà una gravissima sorpresa alla fine della vita. Mi sovviene quando Luigina, a proposito di questo, mi raccontò che una volta il Signore aveva permesso ad un'anima dannata di manifestarsi a lei per dirle che sarebbe stata disposta a ritornare sulla terra a soffrire tutti i mali di tutti gli uomini, di tutti i tempi, fino alla fine del mondo, pur di non stare all'inferno. Purtroppo ciò non era più possibile, perché quello era il suo destino eterno, fissato nel male, senza possibilità di ritorno, di pentimento». E dice Maria Rosaria: «Pensiamo allora cosa sono in confronto le nostre piccole o grandi sofferenze, che comunque finiranno con merito se le sapremo accettare con amore e per amore, come faceva Luigina, che le desiderava perché erano una ricchezza da offrire al Signore, il quale nulla lascia senza ricompensa, perché Lui è il Signore, il Dio amore». Intanto, avvicinandosi l'anno santo, siamo nel 1950, Pio XII pensa anche alla definizione dogmatica dell'assunzione di Maria Santissima in corpo e anima, ma chiede anche un segno dal cielo. Luigina, a nome della Madonna, gli dice: «Padre Santo, proceda tranquillo, Mamma Maria è in paradiso anche con il suo corpo». E un altro fatto eccezionale accadde durante quell'anno. Lei era strettamente legata da spirituale devozione a Padre Pio. Volendo lucrare l'indulgenza giubilare, percorrendo a piedi l'itinerario che i pellegrini arrivando a Roma facevano alle 4 maggiori basiliche, si raccomandò a Gesù e alla Madonna affinché le facessero dono che ad assisterla fosse Padre Pio. Ed è lei stessa che ricorda il fatto a un padre cappuccino. E dice così Luigina Sinapi: «All'inizio di giugno, volendo andare alle 4 basiliche per il giubileo, andai alla stazione Termini per iniziare il percorso da lì, come un comune pellegrino che arrivasse a Roma col treno. Uscendo dalla stazione vidi davanti a me un cappuccino. Percorsa la distanza per arrivare a Santa Maria Maggiore, quando stavo per entrarvi, il cappuccino era davanti a me. Dopo le preghiere stabilite, vidi ancora il padre che mi precedeva, e così per San Giovanni in Laterano, per San Paolo e anche per San Pietro. Lo vedevo sempre di schiena e mai nel volto». E continua Luigina Sinapi. Ultimata la visita in San Pietro, entrai nella cappella del Santissimo Sacramento per un poco d'adorazione e inginocchiandomi qualche panca avanti a me, ecco il cappuccino inginocchiato in preghiera. Quando mi alzai per uscire dalla cappella, per avvicinarmi all'ascensore che mi avrebbe portato al terzo piano dei palazzi apostolici per un appuntamento con il Santo Padre, il padre cappuccino mi era di fronte, Padre Pio. Leggendo la mia grande sorpresa mi sorrise e mi disse, «Sei contenta, Mo? Adesso che vai dal Papa chiedi la benedizione per me e di al Papa che io mi offro vittima per lui tutti i giorni, offro la mia vita al Signore per lui e per la Chiesa». Io intanto tremavo, dice Luigina, per l'emozione di vedermi di fronte Padre Pio. In effetti, dopo il primo incontro al Gargano, quando era ancora piccolina, quando la mamma la portò con sé, lo rivedrà di persona solo a San Giovanni Rotondo 3 anni dopo questo fatto, quindi nel 53, e continueranno da quel momento i frequenti incontri in Puglia. Prima però lo vide molte volte in bilocazione. Com'era quel momento? Come stava succedendo in quel momento? Quindi durante il giubileo. E lei continua. Appena Padre Pio terminò di dirmi quanto dovevo riferire al Papa, sparì e io mi affrettai all'ascensore. Il tremito mi durò sin davanti al pontefice. Doveva avere un viso anormale. Io poi non sapevo di essere profumatissima e rimasi ancor più imbarazzata quando con il suo paterno sorriso il Papa mi chiese «Ma che? Ti sei gettata addosso una boccetta intera di profumo?» E io confusa «Padre Santo, mi faccia riposare un poco e le narrerò tutto». Quindi mi calmai, dice Luigina, e gli riferii tutto quanto e chiesi la benedizione per Padre Pio. Il Papa, mentre alzava la mano per benedire, ambedue all'istante, dice, vedemmo il Padre davanti a noi, cioè Padre Pio, circonfuso di una grande luce. Allora, dalla bocca di Pio XII uscì come in un sussurro questa frase, «Io sono il vicario di Cristo, ma Padre Pio lo vive Cristo». Sono fatti incredibili, però fanno parte di una documentazione ben chiara. Ma non dobbiamo neanche stupirci più di tanto, perché, dicevo prima, se pensiamo a Padre Pio, a quello che lui, diciamo, ha vissuto nella sua vita, a quello che Santa Gemma Galgani ha vissuto nella sua vita, fatti di questo tipo. Nel frattempo, però, la sua salute diventa sempre più fragile e il Papa le concede di avere una piccola cappella nel suo appartamentino, non poteva neanche più uscire, dove ogni giorno un sacerdote celebra la Santa Messa e si raduna una piccola comunità di anime. Lì, davanti al Santissimo Sacramento, vive sino all'ultimo la sua offerta. E qui, dopo la morte di Pio XII, che avviene il 9 ottobre 1958, gli incontri con Padre Pio si intensificano, o in bilocazione o direttamente con qualche suo viaggio a San Giovanni Rotondo. Nel frattempo, sono gli ultimi giorni della sua vita, lei desidera soffrire e offrire in unione con Gesù, tutta se stessa, e i dolori, soprattutto al venerdì, sono atroci. Ma lei vuole che tutto resti segreto alle tante persone che vengono a farle visita, che ella accoglie nei loro problemi, pregando per loro la Madonna, donando lei luce, coraggio, senso cristiano della vita, vedendo anche in quelle anime vicino a lei, il Signore le faceva vedere il loro futuro cammino. Non le manca mai la croce e ripete ogni giorno con San Paolo, non so altro che Cristo crocifisso, non c'è grazia più grande che essere associati alla passione di Gesù. E scrive nel suo diario una sintesi della sua esistenza, dice così, da anni non ricordo 5 minuti di sollievo. Nello stesso tempo però torna la sete di anime e con essa la sete di patire e di offrire. Le anime costano il sangue di Gesù e ho la pena di far poco o nulla per loro. Come segno dell'amore di Gesù per me gli chiedo la sofferenza perché comprende quando un'anima si perde è una sofferenza immane, in tutti i sensi. E lei sa, soprattutto, perché il Signore gli fa vedere, quelli che saranno i tempi oscuri per la Chiesa e per il mondo, e ne è consapevole. A qualcuno lei confida, dopo il concilio, la Chiesa dovrà superare, quindi il Concilio Vaticano II, la Chiesa dovrà superare molte difficoltà, ma alla fine essa ne uscirà rinvigorita. Poi, su suggerimento della Madonna, scrive: tempo verrà, dice la Madonna, in cui menti corrose dall'orgoglio di scoprire contesteranno il Vangelo, perché Gesù non ha scritto, ma gli apostoli, infiammati dal fuoco divino, lo hanno scritto con il sangue. Quel fuoco si sta spegnendo. La Chiesa, dice la Madonna, ha bisogno di nuovo di questo fuoco. Parole pesantissime, in cui si intravede la tragedia della nuova teologia e della nuova esegesi già condannati da Pio XII nella Humani Generis del 12 agosto del 50, e che, dilagando di nuovo dappertutto, di fatto distruggono il credo cattolico, seminando confusione, soprattutto rovina nelle anime. La Madonna però dice a Luigina: coraggio, tu ardi e io incendio. E il granello di senape, questo granello di senape meraviglioso, macerato nel dolore e nell'offerta a Gesù, pur dal nascondimento ha diffuso la vita divina della grazia ovunque, soprattutto tra i sacerdoti, fino a diventare un grande albero. Quanto la sua sofferenza, quante anime ha salvato, lo so soltanto il Signore, lo sapremo solo in paradiso. E chi a lei chiedeva, a Luigina gli chiedeva: ma quando finirà la tua sofferenza? Lei, sorridente, diceva: facciamoci santi, io aspetto. E l'attesa, cari amici, finì il 17 aprile 1900.